dalla Black Side Records. Per il 2007 DJ Rio Overfighters Blade fa ombra sull'asfalto, pagine a volte da notte, sono lacrime di ghiaccio laddove il fuoco percuote. Non c'è tempo fra, respiro per fuori il petto, gli senti salgono a prendermi, spettri dentro al mio letto. Sono voci nella notte per un bacio che mi tradisce. Sarà come quando il vento sulla strada ti rapisce. Peccati sopra le mie palme ed ogni lacrima pesa. Cuori impuri fra, come i crimini della chiesa, man. Santi e puttane per la corte dell'asfalto. Io non ho titoli fra, la strada mi porta in alto. Sono pagine insonne in quest'incubo senza fine. Non chiederti perché mio Dio porta corone di spine. Versi astratti fra, fanno di me un'anima sola. Eclissi ho viste nelle sfide col fuoco della parola. Sono ombre sulle croci, poi lamento delle voci.